Storie italiane. Una promessa non mantenuta. Molto tempo fa, quando il Giappone era ancora giovane, viveva in un piccolo villaggio un uomo di nome Hisashi. Era gentile e giovane, ma la vita era stata ingiusta nei suoi confronti e quindi era molto povero. Doveva lavorare molto duramente per guadagnarsi da vivere durante i giorni in cui il sole splendeva alto. Ma quando arrivava l'inverno, trovava pochissimo lavoro e talvolta soffriva terribilmente la fame. Un giorno, quando era fuori, camminando nel vento freddo, si imbatté in una gru che giaceva nella neve. Cos'è quello? Oh, una gru! Oggi sembra essere un giorno fortunato. Posso fare una zuppa? Ma quando guardò più da vicino, vide quanto era bella la gru e il suo cuore fu catturato dalla sua bellezza. Io non posso cucinare questa gru. È così bella. Oh, che cos'è quello? L'ala è ferita. Cosa posso fare? E dalla sua borsa tirò fuori un balsamo per curare la gru. Era fatto di molte erbe speciali della terra. Ecco a te, piccola gru. Curiamo questa tua ala. Oh, non muoverti. Potrebbe pizzicare un po', ma ti guarirà in un minuto. E proprio come aveva detto, la gru iniziò subito a sbattere la sua ala. Non sentiva più il dolore e ora guardava il suo salvatore. Hisashi gli sorrise e la gru sbatté entrambe le ali e volò via. Beh, immagino che avrò fame anche oggi. Ora andiamo a casa. Quella notte, mentre Hisashi dormiva profondamente, i venti all'esterno diventarono sempre più forti. Dopo un po' di tempo, fu svegliato da un suono alla porta. Cosa? Deve essere il vento. Ma i colpi continuarono e iniziarono a diventare ancora più forti. Hisashi era preoccupato. Questo rumore non sembra affatto il vento. E se fosse un ladro? Devo andare a controllare. Chi è? Voglio sapere il tuo nome. Bene, aprirò la porta. E quando aprì la porta, rimase scioccato nel vedere una bella donna in piedi fuori nel freddo pungente. Aveva una borsa enorme con sé, che aveva appoggiato accanto a lei. Oh no, stai bene? Vieni dentro, in fretta. La donna non emise alcun suono e cadde debolmente tra le sue braccia. Oh cielo, il suo corpo è freddo come il ghiaccio. Deve essere così debole. Prenderò la borsa più tardi. Quindi Hisashi portò la donna nella sua stanza e la sistemò nel suo letto caldo. Ecco, ora sarai al caldo. Brrr. Affamato e freddo, una bellissima sconosciuta a casa mia? Che giornata strana! È notte! Presto si addormentò accanto alla fiamma della candela che finiva. La mattina dopo si svegliò e vide la donna seduta al suo fianco. Ciao, mi chiamo Tsuru. Mi dispiace di essere entrata così all'improvviso ieri sera e di averti disturbato. Oh no, va bene. Come stai oggi? Eri abbastanza calda mentre dormivi? Sto molto bene. E anche il mio sonno è stato molto bello, grazie. Ma dimmi, da dove vieni? Io non ho davvero una casa. Stavo vagando nel freddo quando ho visto la tua casa. Non ho un posto dove stare. Beh, perché non resti qui finché non decidi dove andare? Inoltre, vorrei poterti dare qualcosa da mangiare, ma come puoi vedere... Oh, non sarà un problema. La borsa che ho portato con me era piena di riso. Dov'è? L'ho messa nell'angolo, laggiù. Tsuru prese il riso e presto preparò una pentola di riso caldo al vapore per entrambe. Hisashi non mangiava da giorni in modo corretto e quindi mangiò l'intera ciotola. Era buonissima. Ora va bene se resto. Ovviamente. Quindi i giorni passarono e i due vissero abbastanza felicemente assieme. E appena iniziarono a conoscersi meglio, Hisashi si innamorò presto di Tsuru. Ma cosa posso fare? Non sposerà mai qualcuno come me. Ma non c'è niente di male nel chiedere. Tsuru, c'è qualcosa che voglio chiederti. Vorresti, per caso, sposare un uomo come me? Ah, sì! Voglio dire, so di essere povero e tutto, ma... Aspetta, cosa? Hai appena detto di sì? L'ho fatto! Ho visto quanto sei gentile e buono e mi piacerebbe sposarti. E da quel momento in poi, Tsuru e Hisashi vissero insieme come marito e moglie. L'inverno finì presto e con esso anche il sacco di riso di Tsuru. Hisashi iniziò a lavorare di nuovo, ma veniva comunque pagato molto poco. Lui era molto triste. Mio caro, non devi preoccuparti. Ti darò un bellissimo tessuto da vendere al mercato. Ma da dove prenderò questo tessuto? Lo farò io. Ma ci vorranno 5 giorni per farlo. Mi chiuderò nella stanza e tesserò la stoffa per te. Ma devi promettermi di non entrare mai. Uscirò una volta finito. Hisashi era molto confuso, ma accettò facilmente. Quindi quel giorno Tsuru entrò nella stanza e si chiuse dentro per 5 giorni. Hisashi non sapeva cosa fare, così aspettò pazientemente sua moglie. L'ultimo giorno Tsuru uscì dalla stanza tenendo tra le mani un bellissimo pezzo di stoffa. Aveva fiori e uccelli ricamati su di esso e sembrava perfetto per una regina. È semplicemente bellissimo! Come hai fatto, amore mio? Shh, è un segreto! Ora vai e vendi la stoffa! Quindi Hisashi uscì e vendette la stoffa. Quando tornò a casa era di buon umore. Andò incontro a sua moglie e le raccontò di come aveva venduto la stoffa per una somma molto buona. Questo è un bene, caro. Con questi soldi ti cucinerò qualcosa di molto gustoso. Questo andò avanti per qualche tempo. Tsuru si chiudeva nella stanza per 5 giorni e Hisashi aspettava pazientemente. Ma ogni volta che usciva dalla stanza sembrava più stanca dell'ultima volta. Un giorno, un amico di Hisashi della città venne a trovarlo. Si salutarono e si fecero domande sulle rispettive vite. Mia moglie è la donna più bella e gentile di sempre, amico mio. Vorrei che tu potessi incontrarla, ma si è chiusa a chiave nella stanza. Cosa? Perché? State per caso litigando? Hisashi spiegò quello che Tsuru faceva e l'amico sembrò divertito. È strano, vero? Sei suo marito, eppure non sai nemmeno perché lo fa. Ed è ancora più strano che tu non lo voglia scoprire. Bene, ora devo andare. Saluta la tua moglie segreta. Ciao! Hisashi si turbò molto nel sentire le ultime parole del suo amico. Era vero che non aveva mai chiesto a sua moglie cosa facesse in quella stanza. Inoltre, da dove prende quella bella stoffa? Devo assolutamente scoprirlo. Quindi questa volta decise di sbirciare nella stanza. Tsuru si fidava di suo marito e quindi non chiudeva mai la porta. Quando Hisashi aprì la porta, rimase scioccato nel vedere non la sua bellissima moglie, ma la gru che aveva salvato qualche mese prima. La povera creatura si stava strappando le sue bellissime piume bianche come la neve per creare la bella stoffa. Tu? Tsuru? Sei una gru? Hisashi! Perché? Perché hai rotto la promessa? E con ciò Tsuru sbatté le ali e volò fuori dalla finestra. Tsuru, no! Aspetta! Mi dispiace! Tsuru! Mi dispiace di averti mentito, amore mio, ma volevo ringraziarti per avermi salvato la vita quella notte e ti amavo davvero, ma avevo bisogno che ti fidassi di me. Per favore, resta con me. Non infrangerò mai più nessuna promessa. Matsuru volò alto in cielo e non tornò mai più. Hisashi aveva il cuore spezzato. Aveva amato molto Tsuru. E da allora non si sposò con nessun'altra donna. Vagava osservando il cielo, aspettando che lei tornasse, ma non lo fece mai. aveva rotto la sua fiducia. E la fiducia non si ricarica. Una volta che se n'è andata, probabilmente non la riavrai. E se lo farai, non sarà più come prima.